24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Buongiorno, buongiorno, sono le 6:33 minuti, siamo qui, incredibilmente c'è Elisabetta Fusconi in redazione alle 6, una roba che a quest'ora non si vedeva dai tempi delle sette piaghe bibliche. Erano sette? Non so, 10, quanti erano? Quella roba là, insomma. C'è il nostro Peter Bescapè in regia, e allora questa è una nuova puntata di 24 mattino, ben ritrovati da Alessandro Milan. Sì, sì, non ce la contraffila il pre, Milan sei proprio un coglione. Oh, ma è possibile che sei un pieva così, lavori in radio, e il mondo va così. Vabbè, pazienza. Come al solito, Vincino, buongiorno. Come al solito è così. Oh, ma c'è un clima qua di grande attesa, no? Appena parlo subito questo mi accoglie così. Vabbè, questo è il nuovo entrato, il nuovo ingresso. Dobbiamo dire qualcosa? No. Su quello, no, lasciamolo. Mi vogliono bene. È una giornata dura. Allora, apriamo subito il Parlamento. Allora, che voglio salutare anche la nostra. Il caffè volentieri a tutti. Oh mamma, adesso so già cosa parte. Io non lo voglio, ecco. Il caffè della Minetti. Tu continui, che forse hai preso anche tu i suoi favori? Strozzate col caffè della Minetti, noi non lo vogliamo dalla Minetti. Brutto cretino d'un Milan. Eccolo lì, l'altra che mi vuole bene. Non so, saluta allora Luisella Costamagna, buongiorno. Buongiorno e ben ritrovata. Buongiorno a voi. Magari lei ci vuole un po' più bene, Vincino, di questi. Sento, di queste. Sei molto apprezzato. Sì, sì, qua proprio appena uno apre bocca, no, entrano subito nel bar a insultare. E vabbè, allora, come avete capito, siamo con Vincino. E siamo con Luisella Costamagna e siamo con l'IVA, ecco l'IVA, vi voglio subito mettere di buon umore. Sapete cosa hanno scogitato per l'IVA? Pare dai giornali, slitta di 3 mesi. Oh, siamo il paese dove tutto slitta, si va avanti così, questa idea un po' raffazzonata, adesso andiamo avanti 3 mesi, poi non si sa, tra 3 mesi finiscono i soldi, no? Dobbiamo fare, è Vincino. Facciamo una commissione, prima slittiamo, poi una commissione. Una commissione dei saggi sull'IVA, non sarebbe? Cosa, a proposito di commissioni, Luisella, cosa starà facendo, a parte l'IVA, cosa staranno facendo i saggi? I saggi, di cosa staranno? Ma non lo so, siamo davvero, a ragione Vincino, il paese delle commissioni, i saggi, poi gli authority, sì. Poi gli slittamenti, dunque poi pagheremo alla fine, sì, pagheremo, sì. L'IMU, pagheremo tutto. Pagheremo, quindi... tutto, pagheremo duro. Questo, questo. Ma che è Vincino? È caduta la linea. Dove sta Vincino? Pagheremo tutto, pagheremo duro. Questo è il punto di vista, no? Faremo. Sì, poi facciamo i decreti. Ormai tutti i decreti sono diventati slogan, no? Per esempio il decreto del fare. Ah, fantastico. Non so, il decreto del rimandare, sì, il decreto del pagare. Per me è il decreto del dire da 3 giorni. Per ora è il decreto del dire, perché han detto che faranno tante cose, poi forse faranno e diranno tante altre cose. Ma per ora non mi sembra che abbiamo fatto molto. Hanno detto, il decreto del dire. Sì. Quindi, insomma, questa è la notizia sull'IVA. Sull'IVA pare che spunti questa idea di rimandarla di 3 mesi. Questo è il massimo del miracolo che riescono a fare. Questo è il massimo del miracolo che riescono a fare, anche perché dicono che non si trovano 4 miliardi. Vincino, ti abbiamo recuperato. Non si trovano 4 miliardi. Poi uno legge il Fatto Quotidiano a pagina 9 e scopriamo che, per esempio, ci sono le consulenze in Lombardia, la regione Lombardia. C'era uno che distribuiva i buoni gelato nell'evento Lecca nella foresta. Vincino, Lecca nella foresta. Questa è una delle consulenze. Alla fine, 1000 euro qui, 1000 euro lì, si arriva a 1.300.000.000 di consulenze della pubblica amministrazione. Lecca nella foresta, questa. Il distributore di gelati. Tu come li troveresti, Vincino, questi soldi, questi 4 miliardi? Allora, io prima cosa abolirei le regioni, non le province, sono le regioni il disastro, e ridarei la competenza della sanità allo Stato nazionale diretto, no? E così invece di avere 20 assessorati, ognuno dei quali ricava soldi, la politica ricava soldi da proprio miliardi di soldi delle cose, a questo punto ne abbiamo uno solo, tipo quello che c'era tanti anni fa, no, che si nascondeva i lingotti dentro. Abbiamo uno solo invece di 20 e risparmiamo alla grande così. Sì, sì. Abbiamo un solo centro di corruzione invece di 20. No, diciamo che il guadagno c'è. Sì, sì, per la questione statistica, diciamo, ruba uno e non rubano 20, e quindi si scherza, come... Si scherza, no. Vinci, non bisogna dirlo sempre, si scherza, come no, si dice. No, non si scherza, no, non assolutamente. Si scherza. No. Sono i grandi numeri questi qua. Come dire, non, quindi abolire le regioni. Non scherziamo se diciamo che presentiamo una legge e aboliamo la corruzione. No. La corruzione secondo me è endemica, è la politica che è corrotta di per sé, no? Tutta la politica di ogni genere, da sempre, no, praticamente. Quindi eliminare le regioni. Tu, Luisella Costamagna, cosa faresti? Luisella, la prima cosa che ti viene in mente, mettiti nei panni di Saccomanni, adesso devi trovare entro il 1° luglio dei 4 miliardi. Ma non è così complicato, davvero tagliare gli sprechi finalmente della spesa pubblica, quindi i costi della politica, non si è capito perché le pensioni minime degli italiani possono essere tagliate, invece le pensioni d'oro, adesso la Corte Costituzionale ha detto, sono un diritto acquisito per cui non si possono tagliare, non si può dare contributi di solidarietà. Il finanziamento pubblico ai partiti lo stesso, verrà azzerato nel 2017, sempre dopo, no? Per la politica è sempre dopo, quindi tagliare su quello e combattere veramente l'evasione fiscale, cioè, sta parlando di 120-150 miliardi l'anno di tasse evase, no? Come non si riescano a trovare 8 miliardi, non solo l'IVA ma anche l'IMU si potrebbero trovare. Sì, non ci sono questi 8 miliardi, che ci aveva Vincino, che ci avevi da borbottare sull'evasione fiscale? Tagliare l'evasione, no, è una cosa che tutti dicono, ma non da 30 anni, da 40 anni non c'è governo che dice noi faremo una dura lotta all'evasione. No, lo dicono. Lo dicono. Per dirlo lo dicono. Lo dicono benissimo. Anche là è un'altra cosa di quelle che come dire, è una chiacchiera. Ieri il ministro della pubblica amministrazione Dalia ha detto che siccome il Fatto Quotidiano ha pubblicato appunto 1.300.000 euro di consulenze, ora stretta giro di vite sulle quando sento giro di vite sulle consulenze mi viene veramente, mi casca tutto, giro di vite nelle consulenze. Giustamente uno mi ha subito mandato un link su Twitter dicendo che già l'aveva detto Patroni Griffi, il 20% in meno subito di consulenze, tanto non si ricorda nessuno, ma chi se ne frega, uno lo dice e poi i politici sia locali che nazionali sono nelle consulenze, come dire, il sindaco arriva a fare il sindaco e allora siccome non c'è la lira in bilancio però e non può assumere nessuno con le consulenze, è chiaro. Si fa il progetto Lecca la foresta e si dà 1.000 euro a qualcuno per distribuire buoni gelato, cioè, come la regione Lombardia, le province quante volte l'abbiamo sentito dire non hanno mai fatto, sì, cioè, comunque siamo sempre lì, sono 12 miliardi le province ma sì, insomma, ognuno... Le province, però, le province, secondo me, sono una Napoleone, deriva, hanno tanti anni, tante centinaia di anni di storia, no? Io che sono anziano, no? Io ho vissuto prima delle regioni, eccetto le regioni quelle là. E si viveva bene? E si viveva bene? Felici, tranquilli, non c'era nessun problema, la sanità, tutto, camminava tutto tranquillo. Cioè nessuno vedevi in piazza che protestava per le regioni, vogliamo le regioni? Anzi, protestavano quando le volevano mettere, protestavano contro, vabbè, meglio noi facci per cui via, non c'è problema, no, però... Ti assicuro, vabbè che vivo in Sicilia, una regione che là, quella storicamente, perché sennò facciamo il separatismo noi, in Sicilia... siamo come l'Alto Adige, mica però insomma vivi nella regione con i conti più a posto, la Sicilia tutto a posto, tutto a regola, neanche un dipendente pubblico, tutto tranquillo. Allora sono Marco tutti regionali. Sì. Marco da Roma ci suggerisce vendere la RAI, qui abbiamo una che la conosce bene la RAI, vendere la RAI, Luisella, come in Grecia, cioè vendere, dismettere, fare una bella compagnia pubblica. Anche questo non sarebbe una follia, o meglio, privatizzare la RAI, sottrarla al controllo dei partiti non sarebbe male. Dopodiché siamo in un paese in cui anche questo rappresenta un'anomalia. Sì, sì. Anche questa è la prima volta che la sento, via la politica dalla RAI, effettivamente. Infatti, poi non vedono l'ora di metterci la cadrega, no? Di occuparla. La cadrega, Vincino, sai anche tu cos'è la cadrega? La cadrega, la sai anche tu cos'è la cadrega, Vincino? La sedia, ma su, dopo che Aldo Giovanni e Giacomo fecero il mitico, mitico pezzo sulla cadrega, la prova ormai per vedere se uno era terrone o no. Esatto. La cadrega, la cadrega. Sono molto terrone proprio. La cadrega, zero. Comunque c'è anche chi ha trovato un'altra soluzione, ed è Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi ha trovato la soluzione tranchant, proprio sentiamolo, è la questione di come risolvere i problemi economici. Da qui in avanti, fiscal compact e il limite del 3% all'anno ve lo potete dimenticare. Come? Non abbiamo capito. Ci volete mandare fuori dalla moneta unica? Fatelo. Ci volete mandare fuori dall'Unione Europea? Ma no. Beh, vi ricordiamo che noi versiamo 18 miliardi all'anno e ce ne ridate indietro solo 10. Ma chi mai ci manda fuori? E dall'una e dall'altra parte. Quindi bisogna che chi va su non batta i tacchi di fronte a queste autorità di Bruxelles. Questo, hai capito, Vincino? Mica andare lì. Cioè, bisogna aggiungere che l'ha detto mentre inaugurava una casa di cura a Pontida. Sì. Ecco, no, questo giusto come fatto, Vincino, come fatto. Questa casa di cura lui ha capito, e si ricordava quando i suoi tacchi scattavano, no? E sì. Allora, però il concetto è questo, violiamo i patti, questo è, no? Sì. Forza Luisella, adesso ti puoi scatenare, su. Come se avessi di fronte Berlusconi, digliele tutte. No, la prima cosa che voglio dire, non mi sembra che quando lui era Presidente del Consiglio abbia alzato così tanto la testa nei confronti dell'Unione Europea. Dopodiché il dato di fatto positivo è che il PDL e Berlusconi continuano a parlare liberamente delle promesse elettorali, dell'IMU, a mantenere un'identità che mi sembra che il PD invece non abbia, per cui le cose che vogliono fare, la riforma fiscale, continuano a dirle, la responsabilità sembra che sia di qualcun altro. Terzo elemento è che con questa con questo affondo l'Unione Europea, sforiamo i patti, tanto non ci cacciano, in realtà si è coperta un'altra notizia che diventa marginale, proprio perché è diventata più importante questa, cioè l'indagine che pare ci sia nei confronti di Berlusconi in Irlanda per riciclaggio e ragione fiscale. Hai visto, Vincino, come combatte Luisella subito? Cioè, ieri è uscita una notizia bomba che avrebbe ma non si sa, non si l'Irlanda sa. Per trasferire È un giornale di Murdoch, dice, però no, devo dire. Era bellissimo, una cosa che mi ha colpito, che il titolo era sull'Irish Sun, era ex PM Silvio, che stava per Prime Minister, certo. Però leggere Silvio, ex PM, ti ha dato questa soddisfazione, il PM, l'ex PM, l'hanno paragonato a Ingroia, non era un PM, esatto. Più o meno sì, l'hanno paragonata a Ingroia. Berlusconi è un'invenzione nostra che ci rallegra i cuori, un giorno sì, un giorno no, sì. Le dice, eccola. Oh, Berlusconi ha parlato. Comunque, andiamo a sentire le informazioni. Il giorno di Adele però oggi, infatti, dopo il traffico, certo c'è chi ci propone cancellare gli F-35, c'è chi dice tassiamo la prostituzione, sempre per trovare i soldi, sono tutte idee che gireremo al ministro Saccomanni, poi da qui al 1° luglio può farcela. 24 mattino. Si dice che mancano i soldi per rilanciare l'economia e ridurre le tasse. E scusa, a cosa servono le riserve auree della Banca d'Italia? Il pelato sagrestano, capo del governo, dovrebbe rimediare gli 8 miliardi di euro togliendoli dalle missioni, queste missioni militari che non servono a un cazzo. Non sono obbligati di leva, sono militari. Umanamente mi dispiace quando li accoppano, quindi portiamoli a casa, ne va della loro vita e noi recuperiamo i miliardi che stiamo spendendo. E non so per che cosa. Ma che viso ha Berlusconi? Che faccia? Si è trasformato? Si è rifatto per caso il budolino? Mamma mia che spaventa pasteri. Altri 1000 sbarchi, altri 1000 clandestini da mantenere. I soldi per quelli li trovano. Ma porca miseria, basta, non se ne può più. Non ci sono più soldi per gli italiani, ma per mantenere gli extracomunitari, i clandestini, quelli sì, dai. C'è crisi, non per loro, senatori, parlamentari, ministri, sottoministri, sottosottoministri, consiglieri, assessori, sindacalisti, portaborse, diplomatici, ex diplomatici, onorevoli, ex onorevoli, segretarie, generali, commissionari. Crisi? Ma dov'è? Ciao Alino, abbiamo risolto problema numero 3, ponte sullo stretto. Finalmente dopo 100 anni la Sicilia è collegata alla Tunisia. Non ci sono più sbarchi di clandestini, arrivano in bicicletta, vedono com'è l'isola e tornano a casa. Ciao. È tornato il nostro dal futuro, dal 2113 Vincino, l'hai sentito? Stupendo, questo? È straordinario, è straordinario. Prima l'oro della Banca d'Italia, una cosa dopo l'altra perfetta. Lo spaventapasseri, tra l'altro ho qua davanti la prima pagina riprodotta dell'Irish Sun, Luisella, non solo c'è l'ex PM Silvio, ma l'hanno messo anche in prima pagina vicino a una donna seminuda. Sì, ho visto, quel disgraziato di Murdoch. Allora, è la giorno di Adele, dice Adele. Io sinceramente posso dire, Vincenzo, a me non me ne fregava niente ieri di questa vicenda di Adele Gambar. Io non l'ho visto mezzo secondo. Dentro tu... questo processo degli anni 35, sì, guarda, l'inquisizione. Con Adele, quella cosa, guarda, io me lo sono sentito tutto streaming, quello clandestino, quello coso, in tutti i Facebook, in tutti loro. Guarda. Figurarsi se Vincenzo non si vedeva questa roba terribile da vedere, terribile. Io zero secondi ho visto. Tu, Luisella, l'hai vista questa? Sì, ho visto il l'ho processo. Pezzo, mamma mia, l'assemblea dei senatori l'ho visto. Ma perché uno si deve rovinare la giornata così? Ma veramente? Era comunque una ma perché notizia, quelli volevano fare il governo con questi, ma cioè, sì, quanti minuti duravano, non lo so un governo col Movimento 5 Stelle, no, ma anche oggi però attenzione dire, perché Luisella sicuramente ci dirà qualcosa e sicuramente è stato un esempio di democrazia, vero? No, allora non farei dell'ironia, nel senso che abbiamo detto per anni che ci voleva trasparenza, bisognava vedere cosa succedeva nelle riunioni, ce lo fanno vedere, dopodiché l'immagine non è esattamente confortante, diciamo, nel senso che su questa e su altre vicende a me viene da pensare in questa fase che ci hanno tolto la passione politica, sì, un po' delusione Movimento 5 Stelle, il resto governo di larghe intese, la politica come schieramento, davvero passione, speranza di cambiare le cose non in questo più, momento non, c'è più. Non mi sembra che ci sia da e lì l'hai, parte, lì l'hai riscoperta? Dal 77 io l'ho persa quella. Dal 77? Com'è Vincino? Ma come? Io no. Ce l'avevo, me l'hanno fatta perdere un po'. Ma io non lo so, cosa è emerso da questa? Perché io non l'ho vista veramente, cosa è emerso davvero? La notizia? Allora, i senatori, è emerso una diversità tra Senato e Camera di quelle perfette. I senatori alla maggioranza grande l'hanno salvata, hanno detto assolutamente, anche se è sbagliato resta con noi, perché poi lei retrocesso di mezzo millimetro, lei dura, precisa, tranquilla. I deputati, allora c'è una differenza enorme tra Senato e Camera, infatti io a questo punto sono per lasciare il Senato, assolutamente, in Italia abbiamo bisogno di avere gente assennata e abolire la Camera invece. Fare più veloci le cose, ma assolutamente non avere una Camera. Vedete, sola. Vincino ha seguito la riunione in streaming e ha capito che il Senato conta di più, perché al Senato è la Camera dove Mussolini arriva, ne faremo una cosa, ma non sarebbe mai al Senato. Intanto c'è da dire sui giornali oggi è arrivata già la scomunica, o meglio la vogliono cacciarne un'altra, l'onorevole Anna una donna, adesso non ricordo il nome di battesimo, ha fatto anche lei un'intervista alla Stampa, sarà la prossima forse espulsa dal Movimento 5 Stelle. Vi chiudo con questa notizia, vi devo salutare, grazie Luisella Costamagna per essere stata con noi, puoi tornare a dormire, ti abbiamo sbrandato così come Vincino, puoi tornare a dormire anche te, e che dire, ci troviamo dopo il GR delle 7 per la rassegna stampa. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 Mattino. L'Italia si desta. Sono le 7:19 minuti, eccoci nuovamente in diretta, pronti a leggere i giornali, cari ascoltatori. E allora vi ricordo che oggi anche noi parleremo di questa cosa dell'IVA e ci vogliamo fare questa domanda che tutti si pongono, anche nella nostra segreteria telefonica abbiamo sentito gli ascoltatori dire: ma come non si trovano 8 miliardi, che sono 4 per scongiurare l'aumento dell'IVA e 4 per l'IMU, per cancellare definitivamente l'IMU? Ma com'è che non si trova in uno Stato che spende, faceva sapere anche ieri il Corriere della Sera, togliendo il netto delle pensioni, 350 miliardi di euro l'anno di spesa pubblica? In uno Stato in cui c'è un'evasione fiscale che è stimata sui 150, 120, 150 miliardi l'anno, non se ne trovano 4. Ma com'è possibile? Eppure tutti noi sembriamo avere le soluzioni a portata di mano. C'è chi dice: cancellate le province, cancellate le regioni, cancellate le missioni militari all'estero, via gli F-35, via. Ognuno, dite la vostra, poi magari le mandiamo al ministro Saccomanni e tra qualcuna di queste proposte ne troverà mezza per cercare di scongiurare questa cosa. Va bene, parleremo con Michele Boldrin di Fare, ne parleremo con Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista e con Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano. E allora andiamo a leggere i giornali intanto. In questo martedì 18 giugno i titoli: Il Sole 24 Ore apre così, Tobin Tax, si paga a ottobre, Berlusconi Letta, duello sul 3%. Repubblica, Obama, Europa, patto sul lavoro. Dopodiché tutte le aperture sono proprio su questa uscita di Berlusconi, la questione dello sforare i patti europei. L'Italia sfori il patto UE, questo è il titolo di apertura del Corriere della Sera. Per La Stampa, Berlusconi attacca Letta e l'Unione Europea. Il Giornale, Berlusconi rompe il tabù, Dio ci salvi dall'Europa. Libero, sforiamo i patti, Silvio sfida l'Europa, che fai, ci cacci? L'Unità, Berlusconi sfascia carrozze. Il Messaggero, patto UE, strappo di Berlusconi. Il Fatto Quotidiano, riciclaggio e patti violati, è il caimano di governo. Il Secolo XIX, Berlusconi, violiamo i patti UE. Insomma, come vedete, tutti declinati su questa uscita di Berlusconi. Lavoro è patto atlantico, così apre invece Avvenire, mentre il Manifesto, Titanic sul lago, e c'è la foto del G8, meglio di quelli che prendono in giro con le facce dei grandi leader, quelli del G8. A proposito di soldi da recuperare per l'IVA, seconda puntata del Fatto Quotidiano, Carlo Tecce già domenica l'aveva anticipato, per questo noi l'abbiamo chiamato, e oggi ci torna, pagina 9, le consulenze. Ecco un'altra idea, 1.300.000.000, per carità, non tutti sprecati, ci saranno consulenze importanti, ma 1.300.000.000, questo sono le consulenze delle varie pubbliche amministrazioni ogni anno. Pure l'esperto in tappi e in buoni gelato, Carlo Tecce, pagina 9 del Fatto, e chiaramente mani sul volante, strettissime, cari ascoltatori. Ci sono consulenze che per paradosso e masochismo non si possono definire inutili, ci fanno divertire. La Regione Lombardia ha pagato un volonteroso 1.000 euro per distribuire buoni gelato per l'evento Lecca nella foresta. Non chiedetemi che cosa sia. E ancora, la Regione Valle d'Aosta catalogano con 8.582 euro nell'archivio fotografico di arte contemporanea. La Regione Liguria spende 3.134 euro per un servizio ritagli di stampa per il mercato inglese e tedesco. Sono tutte le consulenzine da 3.000, 2.000, 2.000, 2.500, 3.000, che magari servono a dare un po' di denaro fresco a qualcuno. Risultato: 1.300.000.000 di euro l'anno. Ieri il ministro ministro della pubblica amministrazione Dalia ha detto la frase che si sente ripetere: ora giro di vite su queste consulenze. Si dice sempre così, poi non si fa praticamente nulla. E anche il quotidiano nazionale: dalla soppressata al grifone, e boom di consulenze pazze, con il ministro Dalia che dice: ora basta. Questa non l'abbiamo mai sentita, ora basta. E anche il quotidiano nazionale mette, a pagina 11, con Pier Francesco De Robertis, alcune delle consulenze perlomeno bizzarre. Per esempio, la provincia di Frosinone, per insegnare alle massaie della ciociaria come risparmiare, ha ideato un catalogo dal prezzo di 10.000 euro. Insomma, un bel risparmio, per insegnare a risparmiare. Oppure l'Università di Rende, nel 2012 14.000 euro di consulenza per un controllo di qualità sul processo di essiccazione dei salumi. E ancora l'Istituto per il Commercio Estero ha fatto un libro, 6.000 euro, dal titolo Luci a Istanbul. Un po' prima magari che scoppiassero i casini che stanno succedendo a Istanbul, peraltro. E ancora l'Istituto per il Commercio Estero sempre scommette sulla buona tavola 4.200 euro per apprendere in due lezioni, non di più, i rudimenti dei grandi cuochi. 4.200 euro in due lezioni, uno sa tutto dei cuochi. E sono sempre così, sono quelle spesucce che sommate una all'altra fanno 1.300.000.000 di consulenze nella pubblica amministrazione, segnatevi questa cifra. Ne parleremo poi alle 8.15, è una delle ipotesi sulle quali si può tagliare, e gireremo al ministro Saccomanni magari per tagliare, non so, tagliare metà delle consulenze, e voilà, 500 milioni, anzi 600 milioni dei 4 miliardi per l'IVA sono già trovati. Ma non è facile, non facciamo i qualunquisti. Io prima della pubblicità vi voglio raccontare quello che secondo me è la notizia del giorno dal punto di vista della cronaca. Giusy Fasano sul Corriere della Sera ha intervistato il professor Lucio Petrizzi. Voi dite: chi sarà mai? Lucio Petrizzi fu protagonista, suo malgrado, 18 mesi fa di un caso di cronaca che nei giorni scorsi tra l'altro è ripiombato nella nostra memoria. Lucio Petrizzi infatti dimenticò la figlia in macchina e la figlia morì. Il caso che si è ripetuto tragicamente qualche tempo fa a Piacenza. Cantavamo Pippi, poi lei ha smesso e così ho dimenticato Elena nell'auto. È un'intervista, è un racconto molto intenso affidato al Corriere della Sera di questo professore che da Teramo racconta le note di una canzoncina inchiodata alla memoria. Ricordo che fino a metà del tragitto Elena cantava Pippi calze lunghe assieme a me. Ricordo il rallentare del canto, ho pensato si fosse addormentata o guidato fino all'asilo. In quel punto ero già concentrato sulle incombenze della giornata: casistica clinica, lezioni, studenti, trasferimento della nuova sede. Insomma, sono arrivato davanti all'asilo e mi si è spento tutto. E sono andato a lavorare. Un meccanismo neurofisiologico, si sconnette la coscienza, si fanno le cose in automatico. Elena era scomparsa dalla mia mente, per me era all'asilo, al sicuro. Sono arrivato al lavoro, sono sceso per la pausa pranzo e quando sono salito in macchina ho sentito un rumore, un gemito. Per un istante ho pensato a un cane che fosse entrato nell'auto, poi mi si è accesa la lampadina e mi è piombato addosso il terrore. È stato come se il sangue non circolasse più. Ricorda, tra anche racconta Giusy Fasano, tra le pause per non piangere, insomma la corsa in ospedale, poi quella bambina subì anche un'agonia di 3 giorni prima di morire. E io ricordo, e dice questo professore, non siamo mostri né pazzi, mi creda, lo so che sembra impossibile, assurdo dimenticare un figlio in macchina, ma io ci sono passato e lo posso dire, è successo a me, è successo ad altri prima e dopo di me, può succedere a chiunque, a persone normali, per bene, come noi. Negare che possa accadere significa permettere che accada di nuovo. Negli Stati Uniti si parla di più di 30 casi l'anno. Possono essere tutti pazzi? Io certo sono imperdonabile, ma credo anche che in quello che mi è successo ci sia un difetto del vivere moderno. Questo continuo correre, questo senso del dovere esagerato, questo fare più cose assieme, dover sempre dimostrare di essere all'altezza, 100.000 obiettivi, risultati da raggiungere, così ti perdi l'importanza delle cose reali. Finisce che lo spazio per portare tua figlia all'asilo lo ricavi Non è che costruisci il resto su quello spazio, e però se la società ci dice che dobbiamo correre ci deve dare anche la sicurezza per farlo. I sistemi di allarme sulle auto per non dimenticare mai più un bambino sono una possibilità. Le scuole e gli asili che chiamano a casa se non vedono arrivare il piccolo sono un'altra possibilità. A questo punto qualcosa deve essere fatto. E poi questo professore Lucio Petrizzi racconta il caso di qualche giorno fa. Quando l'ho sentito sono rimasto senza fiato, è stato come risprofondare nell'abisso. Di nuovo mi è sembrato di tornare nel parcheggio dell'università, avere tra le mie braccia Elena, incosciente. Tra l'altro racconta: io pensi, tornai per un attimo in macchina perché avevo dimenticato qualcosa dal bagagliaio e non ho visto mia figlia perché c'erano i vetri oscurati. Capisce? Non l'ho neppure vista. Ovviamente, racconta Giusy Fasano al termine di questa intensa intervista, provare a perdonarsi è un esercizio inutile, non succederà mai. Ma dice questo professore, io un mese e mezzo dopo la morte di mia figlia Elena ho avuto la fortuna di un'altra figlia. È nata e per lei farei qualsiasi cosa tranne una, portarla all'asilo. Non ci riesco, non ce la faccio. Beh, insomma, è un bello spaccato comunque, che vi consiglio di leggere, a pagina 21 del Corriere della Sera. Lucio Petrizzi parla: non siamo mostri, può succedere a persone normali e per bene. A lui è successo di dimenticare la figlia nell'auto, figlia che poi è morta. Ripeto, senza giudizi, ma da leggere, interessante. Ed ecco Alessandro Milan che legge i giornali come nessuno al mondo sa leggerli. E allora eccoci qui, sono le 7:36 minuti, il G8, il G8 è in primo piano perché Letta e Obama si sono incontrati, così come Letta ha incontrato gli altri grandi. Il Corriere della Sera ha fatto sapere e fa sapere in maniera importante che Angela Merkel ha accolto il nostro premier Enrico Letta con un bacione sulla guancia. Ecco, se volete anche un po' di gossip lo trovate. E allora Letta con Obama ha ribadito l'importanza della priorità dell'occupazione giovanile, può sembrare anche un po', come dire, ma come dice, chi se ne frega Obama del lavoro giovanile in Italia? Cioè, meglio, chi se ne frega e sarà contento, ma dice fate tutto quello che serve per il lavoro giovanile. In realtà, insomma, per anche ci sono dei tentativi per lavorare insieme, come raccontano i vari giornali, su appunto il lavoro giovanile come priorità internazionale. Tra l'altro Leonardo Maisano racconta tutti i dettagli a pagina 3. Nel colloquio tra Letta e Obama si è parlato anche della Libia. Non si sa come al momento, ma l'Italia si è impegnata ad aiutare gli Stati Uniti nel risolvere il problema della Libia, come appunto un piano italiano che sarà illustrato al premier libico Ali Zeidan, e quindi questo dovremo attendere per avere delle lucidazioni qualche giorno. Mentre il lavoro è certamente il punto più importante. In un retroscena raccontato dalla Stampa, Fabio Martini, a pagina 5, Letta avrebbe ammesso con Obama che il problema della disoccupazione giovanile ha raggiunto percentuali altissime, ha detto il nostro premier Obama, perché negli anni scorsi sono stati tutelati i cinquantenni ed è stata fatta una riforma delle pensioni che ha inevitabilmente danneggiato i più giovani. In questo, racconta la Stampa, in questo passaggio raccontato a Obama c'è da parte del nostro premier un modo indiretto per criticare la politica dei sindacati, ma in modo talmente soft che molto difficilmente avrà conseguenze nelle scelte strategiche del governo. Comunque questo è il titolo: Letta ammette Obama, nelle riforme delle pensioni tutelati i cinquantenni. E Obama, poi parlando pubblicamente agli altri leader, ha detto: ho già parlato con Enrico Letta, ne ho parlato con Enrico, anzi, perché in queste occasioni informali ci si chiama tutti per nome e ci si dà del tu. Il tema centrale è quello del lavoro, perché ha ripercussioni sul tessuto sociale di tanti paesi. A proposito di lavoro e giovani, un altro retroscena interessante sul Corriere della Sera a firma Lorenzo Salvia, lo trovate a pagina 3, il decreto sui giovani. pause corte per rinnovare i contratti a termine. Questo sarebbe previsto allo studio del governo, potrebbe prendere la forma di una deduzione dell'IRAP, il bonus per le assunzioni stabili dei giovani da inserire nel pacchetto lavoro allo studio del governo. L'intervento sull'imposta per le attività produttive taglierebbe così il cuneo fiscale, il peso delle tasse sul lavoro, anche se sia sulla percentuale sia sulla durata dell'incentivo le ipotesi sono ancora diverse. Il decreto dovrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri di venerdì. Questa è un'ipotesi, ma non è escluso che venga rinviato anche di qualche giorno per dare precedenza assoluta al capitolo dell'IVA. Sulle modifiche invece alla legge Fornero, alla riforma Fornero, il testo del governo è definito, si punta a ridurre o eliminare le pause tra un contratto a termine e l'altro. Si punta ad alleggerire i vincoli sulla causale dei contratti, ad allargare i paletti dell'apprendistato, sia alleggerendo i vincoli sulla formazione, sia abbassando la percentuale dei contratti che alla fine devono essere stabilizzati. Per il momento sembra invece accantonata la staffetta generazionale, cioè il graduale passaggio di consegne tra anziani e giovani, anche se il ministro Giovannini punta molto a questo, e resta il dubbio sui fondi del progetto europeo sulla Youth Guarantee, 400 milioni destinati all'Italia, che l'Italia vorrebbe che venissero spalmati non sui 7 anni del programma di Bruxelles, ma tutti concentrati in 2 anni, 2014-2015. Insomma, queste sono le ipotesi per lavorare su quella che è la priorità, cioè il lavoro giovanile, l'occupazione giovanile. Se ne è parlato anche al G8, dove invece non è arrivata l'eco, come ha detto lo stesso premier Enrico Letta con una battuta fulminante quando gli hanno chiesto di Silvio Berlusconi e dell'appello che ha fatto Berlusconi, cioè dire andate lì in Europa e alzate i tacchi, battete i tacchi e dite noi sforiamo il patto del 3%, tanto che fate, ci cacciate cara Europa? Che ricorda un po' la sfida, come la mette Libero, il che fai mi cacci di Gianfranco Fini a Silvio Berlusconi. Insomma, non è arrivata questa eco. Letta con una battuta sferzante alla domanda di qualcuno, ma senta, i leader hanno commentato questa frase di Berlusconi, evidentemente non gli è giunta, non gli è stata riferita, come dire non ci interessa questa cosa se è parlato d'altro. Comunque Berlusconi ha lanciato questa bomba dal punto di vista dell'annuncio, sforiamo il vincolo europeo del 3%, questo è il titolo a pagina 6 del Sole 24 Ore, Barbara Fiammeri, l'altolà subito di Letta, la posizione italiana non cambia, ma ecco il Repubblica, il nuovo strappo anti-europeo di Berlusconi, sforiamo il 3%, tanto non ci cacciano, Berlusconi e Bruxelles avverte rispettate gli impegni. C'è anche il retroscena, firma Francesco Bei a pagina 4 di Repubblica, l'ira fredda di Letta tra i grandi, Silvio fa il gioco di chi dubita di noi, dice Letta, probabilmente non sono stati informati, ecco questa è la battuta dei grandi riguardante appunto questa uscita di Berlusconi, è un caso la sfida di Berlusconi all'Europa, questo è anche il titolo del Corriere della Sera. Il retroscena interessante è su questa uscita di Berlusconi, è a firma di Ugo Magri sulla Stampa. Pagina 9 racconta Ugo Magri, il Cavaliere si prepara già alla campagna elettorale. Ieri mattina il Cavaliere era di pessimo umore per via delle grane giudiziarie che stanno prendendo, secondo quanto risulta al suo staff legale, una gran brutta piega. Cattive notizie gli giungono in particolare dalla Corte Costituzionale, che domani si pronuncerà su un legittimo impedimento e di riflesso su una condanna avuta in appello per i diritti Mediaset. Ed ecco allora che se decidesse di far vacillare un governo coperto di elogi non più tardi di domenica scorsa, l'uomo di Arcole sceglierebbe proprio l'Europa come terreno di scontro con la sinistra. Insomma, le grane giudiziarie che pendono sarebbero anche la causa che spinge Berlusconi a forzare un po' la mano su questo tema, anche perché grane giudiziarie sono la Corte Costituzionale, domani appunto deve decidere su un legittimo impedimento che era stato negato dal Tribunale di Milano e sulla quale poi i legali di Berlusconi hanno fatto un appello, e che se venisse accolto questo appello inficerebbe la condanna già avuta in appello a 4 anni. Poi c'è la sentenza Ruby lunedì prossimo, poi ci sono altre inchieste. Oh, pare che dall'Irlanda ci sia una nuova inchiesta, nonostante l'avvocato di Berlusconi che smentisca. Ieri l'Irish Sun, che è un quotidiano di Murdoch, ha messo uno scoop, definito scoop a livello mondiale, cioè l'ex primo ministro Berlusconi indagato in Irlanda per evasione fiscale e riciclaggio. Ghedini dice nessuna indagine, c'è un po' un mistero su quello che è stato lanciato come un mega scoop. Il Fatto Quotidiano con Gianni Barbacetto e Marco Lillo ci si fionda. Riciclaggio, l'Irlanda indaga sulle operazioni del Caimano, questo è il titolo a pagina 3, la rivelazione dell'Irish Sun. Per l'Agenzia delle Entrate a Dublino, Mediolanum avrebbe sottratto all'erario oltre 300 milioni di euro. Vabbè, insomma, una nuova grana giudiziaria. In tutto questo si discute sempre dell'IVA. Noi ne parleremo alle 8:15 con gli ospiti. Ma allora, questi soldi per l'IVA si trovano o no? Diciamo che la versione ultima, ma da qui al 1 luglio ce ne saranno di nuove, è che molto probabilmente quello che si riuscirà a fare, come racconta il Sole 24 Ore a pagina 6 con Dino Pesole, è un rinvio di 3 mesi. Si va verso questo rinvio di 3 mesi, poi toccherà la legge di stabilità cercare di porre rimedio. Questo si potrebbe fare, non di più. Il cosiddetto miracolo evocato dal ministro Zanonato potrebbe essere questo qui, il rinvio di 3 mesi. Secondo il Secolo XIX l'aumento può saltare con l'IMU sulle case di lusso, cioè mettere l'IMU sulle case di lusso, che è un'ipotesi, l'ipotesi Fassina, però come l'accoglierà il Popolo della Libertà? Anche sulle prime case, dopo che il Popolo della Libertà ha detto a Silvio Berlusconi bisogna cancellare l'IMU non si tocca, la cancellazione ormai è cosa fatta. Certo, c'è anche il discorso su Flavio Zanonato, il dibattito all'interno del Partito Democratico e che va sui giornali, come racconta Maria Teresa Meli a pagina 6 del Corriere della Sera, è questo. Ma Flavio Zanonato ci fa o ci è? Nel senso, lui dice io dico solo la verità, ma su questa cosa dell'IMU è stato accusato di essere un killer, un gaffeur, un sabotatore di governo. Il PDL lo accusa, vuol far saltare l'intesa. Lui dice io dico solo la verità, sono un sindaco molto pratico, abituato alle cose da dire, da fare. Viene definito anche così sul giornale, il sabotatore di Bersani. Eccolo lì, viene l'accusa è questa, siccome Zanonato è un uomo molto molto vicino a Bersani, sembra quasi il sabotatore, come se fosse manovrato da Bersani, un'accusa che lui rifiuta con sdegno. Alessandro Milan, il panettiere dell'informazione. Vabbè, ma insomma, ormai mandate la vostra sigla, cosa vi devo dire? Noi abbiamo anche la segreteria telefonica, che com'è che è? 0246524492, 0246524492. Mandate la vostra sigla, premeremo anche questa, che dobbiamo fare? Allora, ci sono tanti articoli su Adele Gambaro, la senatrice del Movimento 5 Stelle che è finita sotto processo, è stata espulsa, credo, dai parlamentari e ora deciderà la rete. Guardate, non è che, è che a me questa cosa veramente interessa, cioè cosa conta nella politica italiana con i problemi dell'Italia? Zero. Però articoli, paginate su questo. L'inquisizione, certo, il sistema è proprio da inquisizione, tipo come scrive Repubblica, eccola lì la strega che si avvia al patibolo. Tra l'altro, racconta il Corriere, attenzione, c'è un'altra richiesta di espulsione, la deputata Paola Pinna, rea di un'intervista alla Stampa, racconta il Corriere, ora sarà lei la prossima a essere espulsa oppure si metterà al voto la sua possibile espulsione. Lei si difende, ha un clima da psicopolizia, racconta nell'articolo di Alessandro Trocino, ma il suo destino è segnato, deve solo scegliere tra ghigliottina o garrota, questa è l'unica possibilità credo che abbia. E infatti il Buongiorno di Gramellini, intitolato Cittadina Realtà, è questo. Salve cittadino 5 Stelle, sono un disoccupato senza casa, pieno di debiti, deluso dai partiti che pensano ai fatti loro, voi invece siete qui per aiutarmi, giusto? Puoi dirlo forte, cittadino disoccupato senza casa e pieno di debiti, noi ci occupiamo dei problemi veri del paese. Oggi per esempio decidiamo se mettere ai voti la diretta streaming della riunione in cui si deciderà se sottoporre al voto della rete la decisione di cacciare dal movimento una cittadina senatrice infetta che ha osato dire che Grillo ogni tanto sbaglia. Capisco le esigenze della democrazia di diretta cittadino 5 Stelle, i miei problemi possono aspettare fino a domattina. Domattina però abbiamo un'altra emergenza cittadino, dovremo rendicontare in diretta streaming gli scontrini dei cornetti al bar di Montecitorio, dividendo i cornetti alla crema da quelli al cioccolato, i cornetti dei buoni cittadini dai cornetti dei cittadini infetti. Potrei avere un cornetto cittadino anche infetto? Per darti un cornetto devo fare lo scontrino e per fare lo scontrino devo chiedere il permesso alla rete in diretta streaming. Il problema è che per chiedere la diretta streaming è necessario convocare una riunione del gruppo. Convocala cittadino, sto morendo di fame. Impossibile cittadino, il gruppo è già riunito. E per fare che? Te l'ho già detto, per decidere se cacciare o no la senatrice infetta. Ma quando comincerete a occuparvi della realtà? La cittadina realtà? Va disinfettata, cittadino, e se oppone resistenza va cacciata, a meno che abbia richiesto lo scontrino. Vabbè, e questo è un po' lo spaccato di quello che sta succedendo all'interno del Movimento 5 Stelle. Cittadina realtà di Gramellini. Che paese l'Italia, eh? Che bel paese. Un paese dove pure la circolare diventa abusiva. Questo è il titolo del Fatto Quotidiano, una storia incredibile. Antonello Caporale sul Fatto, a pagina 5, arrivò una circolare dall'allora ministero condotto e diretto da Passera sulle demolizioni in Campania. La circolare era questa. Sulle demolizioni in Campania procedete con calma, procedete con prudenza. Ma sapete cos'era questa circolare del ministero? Un falso. Era un falso prodotto da qualcuno per frenare le demolizioni degli abusivi. Pure la circolare diventa abusiva. Ma dove vuole andare un paese così? Dove dal ministero qualcuno è riuscito a fare una circolare falsa, quindi abusiva, per cercare di bloccare le demolizioni degli abusivi? Oggi lo racconta il Fatto Quotidiano, a pagina 5. Dove vuole andare un paese dove, come racconta Libero oggi riprendendo La Stampa, riparano la strada solo se cade la senatrice del PD? È successo che la senatrice del PD, Valeria Fedeli, vicepresidente del Senato, che era un convegno a Torino, è inciampata in una buca di una piazza a Torino, si è fatta male, è anche ripresa col cerotto in fronte. Risultato, in giro di 4:48 il comune di Torino ha fatto rattoppare le 35 buche della piazza. E Mario Giordano su Libero dice: brava, mandatela in giro per l'Italia, così basta che inciampi e sistemano, visto che è caduta una senatrice, sistemano tutte le buche d'Italia. Vabbè, siamo al premio, la carta costa. Da oggi è anche un hashtag sul mio Twitter, Alino Milan. L'articolo più inutile del giorno è su Libero, pagina 18. Denunciato dai suoi cuochi, ora l'incubo è per Ramsay. Il cuoco famoso Ramsay, turni di lavoro massacranti, straordinari non pagati, stipendi ridotti, e 4 ex dipendenti dello chef scozzese lo portano in tribunale. L'articolo di Antonella Luppoli, la carta costa, un'intera pagina Libero su questa notizia. Lo chef Gordon Ramsay denunciato da 4 ex dipendenti. 24 mattino. E allora ben ritrovati da Alessandro Milan, sono le 8:17 minuti, eccoci qui. Di solito si dice che siamo un popolo di 60 milioni di commissari tecnici della nazionale, no? Tutti sappiamo come schierare la nostra nazionale per vincere. E mutuando questo esempio sportivo si potrebbe dire che siamo diventati un popolo di 60 milioni di economisti, perché alla domanda come reperire i 4 miliardi che servirebbero per scongiurare l'aumento dell'IVA previsto dal 1 luglio, tutti paiono avere una soluzione, ci chiamano, ci mandano mail, ma è semplice abolire le province, abolire le regioni, tagliare le spese militari, via le consulenze, meno dipendenti pubblici. L'ultima, alcuni ancora ci scrivono in presa diretta, tassiamo la prostituzione, oppure tassiamo le tessere politiche e il voto. Questo vabbè è anche abbastanza ironico. Insomma, tutti paiono avere una soluzione e vi invito a darcela, chiamarci 800 24 00 24. Gli unici che sembrano non averla sono i politici, almeno per il momento, cioè dicono no, non si trovano i soldi per recuperare, non si trovano le risorse. E allora, come due giorni fa scrivevano la Desina e Giavazzi sul Corriere della Sera, ma è possibile che uno Stato che spende 350 miliardi di euro l'anno, escluse le pensioni, possibile che non si riescano a reperire 4 miliardi tra questi 350 50 con dei tagli, oppure in un paese in cui l'evasione fiscale è stimata tra i 120 e i 150 miliardi di euro l'anno, possibile che non si riesce a erodere 4 miliardi in più dell'evasione fiscale e destinarli allo scongiuramento dell'aumento dell'IVA? Eppure pare impossibile, pare difficile. Allora, ne vogliamo discutere sulle possibili soluzioni con due persone che hanno una visione certamente antitetica, posso dire, sia dello Stato, dell'economia. Michele Boldrin, che saluto, economista e coordinatore nazionale di Fare. Buongiorno Boldrin e benvenuto. Buongiorno. Saluto Paolo Ferrero, invece segretario di Fondazione Comunista. Buongiorno Ferrero, eccoci qua. Buongiorno. Allora Boldrin, lei la soluzione come fosse nei panni di Saccomanni, da qui al primo luglio, cosa farebbe? Ma farei le cose che noi abbiamo detto per tanto tempo e che davvero può fare. Alcune le hanno dette davvero i suoi ascoltatori, le cose che lei andava menzionando, se le somma arrivano a un minuto lontano dei 4 miliardi. Ma Regina Giavazzi ha ragione, Giavazzi poi lo sa, ero proprio l'altro giorno con l'altra persona che assieme a lui, Fabiano Schivardi, ha scritto il rapporto sui sussidi alle imprese. Ci sono 4 miliardi lì, per carità non si possono tagliare in un anno, ma diciamo che lì ne troviamo uno. Poi ce ne sono altri 12 circa di trasferimenti, non proprio sempre alle imprese, non sussidi in senso stretto, ma di fatto lo sono. E anche lì uno in un anno si può trovare. Poi se provassimo a trattare tutti i nostri altri burocrati in maniera non dissimile da come il resto d'Europa li tratta, anche solo a livello di stipendi, si potrebbe per esempio ricavare un altro miliardo lì, perché anche di più. Noi stiamo lavorando infatti su un'ipotesi di lanciare una proposta che nessun funzionario pubblico italiano cumuli trattamenti economici di alcun tipo nelle sue varie funzioni in aziende pubbliche o comuni o di ministeri che superino lo stipendio della Presidente della Repubblica. Vale negli Stati Uniti, perché non valere qui? Secondo, se non sbaglio, il Presidente della Repubblica guadagna circa 250.000 euro, sì, o 270, se non mi ricordo. Allora lei capisce che questo, che nessuno superi questa cifra. E lì quanto si potrebbe ricavare? Un altro? Avete già fatto un miliardino, qualcosa. Miliardino. E quindi insomma non è vero che i soldi non ci sono. E appunto, fondo, ma perché la ricetta sembra portata di mano di tutti, eppure cos'è? Non la vedono, non la vogliono vedere? No, è banale. Questo governo si regge, come purtroppo altri, su promesse populiste che come vede non funzionano e non sollevano il paese dalla crisi. Ma d'altra parte questa classe politica è disperatamente attaccata a questo Stato mostruoso che ha costruito, che spende e spande. E parte di queste spese fanno parte del suo potere, i sussidi alle imprese fanno parte del suo potere, le ferrovie dello Stato, le poste italiane, la cassa depositi e prestiti fanno parte del suo potere, i super trattamenti alla burocrazia statale e regionale fanno parte del suo potere, e la gente che gli chiede di tagliargli sta dicendo un po' di tagliarsi la mano sinistra, ecco, capisce? Certo. Non lo fanno. Qua c'è Paolo Ferrero che l'ascolta, lei lo identifica come uno degli, diciamo, dei più grandi difensori dello Stato mostro, oppure no? Adesso poi Ferrero ovviamente argomenterà le sue opinioni. Boldrin, ogni volta che sente tagli pensa a povera gente disperata che aveva bisogno di aiuto, a cui viene tolto il pane, e invece non è così. Lo Stato italiano spende la gran parte dei suoi soldi in privilegiati, in persone che vivono estremamente bene. Lei ci guardi come è cresciuto il reddito di Roma. Lei guardi il reddito nazionale negli ultimi 15 anni, nel resto d'Italia, e vede come cresce. Cresce pochissimo in media. E invece guardi quello romano. Quello cresce. L'Italia stessa, gli stipendi, i redditi delle alte burocrazie ministeriali se ne sono cresciuti, se non sbaglio, un allegro 9% medio, mentre quello del resto d'Italia cresceva lo 0,4%. Ah, quindi il reddito degli italiani non cresce, ma a Roma invece cresce tanto, perché ci sono gli altri. Di tutti i romani. Certo, no, certo. No, in media, è chiaro, sì, è chiaro che aumentando. No, no, chiaro, dice aumentando quello dei burocrati, la media totale aumentano. Non che poi i romani. È talmente forte che si vede nei dati. Se no, ha fatto bene a precisarlo, se no ci chiamano i romani a dire: ma come, io guadagno 1200 euro al mese da 20 anni? No, è chiaro, si fa una media, si fa una stima e incide, lei dice, quello dell'aumento dei grandi burocrati di Stato. Allora, Ferrero, già qualche ricetta Boldrin ce l'ha data. Lei che pensa, vuole partire dalla coda, cioè dell'accusa di voler difendere l'apparato statale? Ma no, partirei dall'inizio. E cioè dal fatto che non è vero che i soldi non ci sono, perché questa è la motivazione che negli ultimi anni è stata usata per tagliare in tutti i modi prestazioni sociali, per tagliare i trasferimenti ai comuni, in generale per ridurre i diritti dei cittadini. E questo non è vero. Dove si possono andare a prendere? Io penso che la prima cosa da fare sia quella di redistribuire il reddito, cioè ci sono una quota degli italiani che è molto ricca, dalle alte burocrazie statali ai grandi manager, ai ricchi semplicemente, quelli che sono pieni di soldi e non sanno che farsene, perché in questi anni la concentrazione della ricchezza è aumentata. Io penso che lì bisogna andarla a prendere. Tassare i ricchi, questo. Ad esempio, ma comprese misure diciamo che vanno nella stessa direzione delle cose che diceva Boldrin, io penso che sarebbe da mettere un tetto agli stipendi dei manager pubblici, così come alle pensioni d'oro, i cumuli a 5.000 euro al mese. Io sono un po' più radicale di Boldrin da questo punto di vista. Bisogna tassare la ricchezza patrimoniale, i grandi patrimoni, lo sottolineo, non tassare di più le imprese, sì. Perché tassare i grandi, diciamo, patrimoni, quindi patrimoni che però siamo sempre lì, cioè, Ferrero, la soluzione è una delle soluzioni. Attenti, che lei propone sono le tasse. Io propongo delle tasse su un versante per toglierne invece i lavoratori, i pensionati, sì. E per fare un salario sociale per i disoccupati. Quindi io non propongo di aumentare il peso del fisco in Italia, io propongo di distribuirlo in modo diverso. E aumentarlo ad alcuni perché distribuire. Perché oggi magari gli ascoltatori non lo sanno, ma se uno possiede delle azioni, al massimo sui guadagni delle azioni paga il 20%, mentre se uno lavora, fa l'operaio. Adesso sto andando alla manifestazione degli operai della Thyssen di Terni, se uno lavora paga ben oltre il 40-50% di tasse. Allora c'è un problema che i ricchi, quelli che possono vivere di rendita, pagano la metà, un terzo di quanto un lavoratore normale. Questa è la vergogna. Faccia un esempio sul grande patrimonio, cosa vuol dire? Lei come lo identificherebbe? Come cifra? Cioè, mi faccia un esempio per capire. Esente al di sotto degli 800.000 euro, sì. E poi dagli 800.000 euro di patrimonio cominciare con una cosa bassa, sì. e poi progressiva. Una progressività. Quindi, per capirci, chi ha 1 milione di euro può pagare 1.000 euro, 1.500 euro, chi ha 1 milione, ma chi ne ha 10 invece deve pagare. No, l'1% di 1 milione sarà... No, ho detto 800.000 esente. Ah, 800.000 esente. La cosa che deve essere chiara, perché altrimenti la gente si spaventa, è che fino a 800.000... Non, io propongo che non si paghi nulla. No, certo, ma se fosse patrimonio. Poi l'1% di 1 milione è 1.000. Esatto. Ma 10.000 è uguale cifra. Si inizia a pagare 800.000 in sì, più. Sì, certo. Gli 800.000 restano una franchigia. Perché per l'appunto io penso che bisogna tassare i ricchi, non la gente che è chiaro, ecco, questa è interessante già una cosa. Boldrin, è una delle soluzioni di Ferrero è tassare chi ha più soldi per redistribuire, magari garantire anche un reddito sociale garantito minimo per i lavoratori. Ma qui Ferrero, temo, almeno dal mio punto di vista, ha mischiato due o tre cose diverse. Allora, anzitutto qui io rispondevo prima alla sua domanda sul fatto che il governo dice non abbiamo soldi per mantenere un minimo di bilancio come avevamo promesso, come dovevamo farlo, senza aumentare ulteriormente troppo il debito, quindi dobbiamo tassare. Questa di tassare i ricchi per dare ai poveri, ammesso in un concesso che funzioni, ovviamente non risolve quel problema. quindi il problema del taglio di alcune spese rimane. Se poi uno si fa anche una domanda più ampia e dice ma le spese, alcune spese servono, forse si rende conto che non servono e allora dovrebbe affrontare la questione di questo Stato. Io quello che ho sentito dire a Ferrero è se lui ritiene davvero che tutto ciò che questo Stato spende sia legittimo, se i sussidi alle imprese, i trasferimenti a Trenitalia, Viandando, le Poste, la Cassa Depositi e Prestiti, che è la più grande banca di investimenti italiana, controllata dal Ministero del Tesoro, siano cose giustificate. Ma questo è un discorso, anzitutto. Poi sul tassare i ricchi per dare ai poveri, guardi, questo è un discorso retorico che si fa spesso e purtroppo, nonostante le sue buone intenzioni, porta scarsamente o quasi mai ai risultati desiderati. Nel senso che da un lato l'idea, mi domando se Ferrero ha fatto i conti di quanto raccoglierebbe con questa tassa, se capisco bene, una specie di patrimoniale. Sì, progressiva, dagli 800.000 euro in su. Che vuole introdurre in Italia. A mio avviso, a naso, se lascia una quota esente attorno a 800.000 e poi va su lentamente, perché tassa solo veramente sopra i 2-3 milioni, ho l'impressione, se i calcoli vecchi fatti con Sandro Brusco non sono errati, noi si usava un metodo diverso, si usava la tassa francese, sono 2 miliardi, 3. Quindi non è tutto questo grasso che cola, il più con una patrimoniale tiri su 2 miliardi all'anno, con i quali redistribuisci ben poco, sì. Perché basta fare i conti, questo è dare, dare una copertura estremamente bassa. Quindi io il problema non lo vedo in quella forma lì, anche a me, ripeto, ammesso che sia quello che vogliamo fare, mentre abbiamo problemi diversi. Quelli sono i problemi diversi. I problemi diversi dobbiamo trovare una maniera che in questo paese si crei lavoro per chi lavoro non ce l'ha e si migliori il lavoro di chi ce l'ha, così aumenta il loro reddito. E per fare questo abbiamo bisogno di far sì che in Italia si installino e crescano. Nascano nel territorio italiano imprese altamente produttive che riescono ad avere successo sul mercato e pagano e sono quindi in grado di generare un reddito che paga i loro dipendenti. Tanto. E questo è uno dei punti del lavoro, guarda, ma è uno dei punti che sul quale anche lo stesso Letta insiste molto, pare, anche avendone parlato direttamente con il presidente americano Obama. Però facciamo così, ci fermiamo 4 minuti, riprendiamo tra poco. Io invito anche gli ascoltatori 800 24 00 24. Siamo con Michele Boldrin, siamo con Paolo Ferrero, tra poco ci aggiungerà anche Carlo Tecce del Fatto Quotidiano, che ha messo il dito nella piaga del 1.300 milioni di euro di consulenze che ogni anno le pubbliche amministrazioni erogano a consulenti, in alcuni casi anche con risultati francamente un po' bizzarri, almeno nel raccontarli dal punto di vista giornalistico. E che cosa si può fare per recuperare? Qualche ricetta viene data, almeno su una cosa mi pare Ferrero e Boldrin sono d'accordo. Anche Ferrero ha detto mettere un tetto agli alti burocrati. Ferrero dice addirittura 5.000 euro al mese, più drastico di Boldrin. 24 mattina. Allora, dove trovare questi 4 miliardi per scongiurare l'aumento dell'IVA, o 8 se volete anche metterci la cancellazione totale dell'IMU? Siamo con Michele Boldrin, coordinatore nazionale di Fare per fermare il declino, e con Paolo Ferrero di Rifondazione Comunista. Tra poco ci ha raggiunto un collega che saluterò. Prima però, Ferrero, vuol rispondere anche alla domanda che faceva Boldrin, cioè questi 351 miliardi di spesa pubblica dello Stato ogni anno, a parte le pensioni, va tutta bene? Diceva Boldrin, cioè, oppure lei taglierebbe da qualche parte e dove? Prima di rispondere a questo, una cosa sola. Boldrin diceva la patrimoniale sulle grandi ricchezze, come la propongo io, da un gettito di 2 miliardi. Sì. I nostri conteggi sono di oltre 10. Vabbè. In ogni caso, io però farei la prova del budino, perché sono 20 anni che si dice ma mettere le tasse sui ricchi non rende niente, infatti fanno pagare sempre i poveracci, che è la cosa nota che è avvenuta in questi 20 anni. Io sarei per metterla e poi vediamo se da 2 miliardi o 10. In ogni caso, con 2 miliardi sarebbe sufficiente evitare l'aumento dell'IVA, di cui invece quello siamo tutti assolutamente d'accordo che un aumento dell'IVA abbassa di nuovo i consumi, sì, e quindi aggrava la crisi. Che però nessuno sa dove reperire da qui a luglio questi. Ecco sulla spesa pubblica. Ma non è che sono da reperire entro luglio. No, è chiaro. Basta è chiaro, che stiano nel bilancio dello Stato. Il mio suggerimento, anche se fossero solo 2 miliardi, sarebbe sufficiente. No, nel senso, poi, entro luglio, nel senso che entro luglio va identificata la soluzione, altrimenti il primo luglio scatta l'aumento. A meno detto che non ci sia un rinvio. Invece, sì. sulla spesa complessiva, io penso che ci sono molti sprechi nella spesa pubblica. La cosa che penso io è che quegli sprechi vanno eliminati e vanno utilizzati per fare funzionare meglio. Me ne dica due, quelli più evidenti secondo lei. Ma ad esempio questo fatto che non vengono fatti gli acquisti centralizzati per il sistema sanitario nazionale, per cui che ogni regione o alla peggio addirittura ogni ASL o qualche volta la singola struttura compera il materiale di consumo, le cose. Questa è una follia. Sì, si è parlato tanto dei costi standard, è scomparsa questa notizia. Dov'è la vicenda sui costi standard? Esattamente, allora ci sono delle cose che evidentemente vanno a toccare degli interessi e che non vengono fatte, questa è una. Però io vorrei dire una cosa che va in totale controtendenza con le cose che diceva adesso, ed è questa: l'idea che è passata in questi anni è che se il bilancio dello Stato si riducesse, l'economia funzionerebbe meglio. E io voglio far notare che se l'Italia ancora sta in piedi, è esattamente perché c'è un bilancio pubblico molto consistente, perché il crollo dell'industria è stato addirittura del 20%. Se noi avessimo avuto solo il bilancio privato, tra il crollo dell'industria e dei servizi, il crollo del prodotto interno lordo sarebbe stato distruttivo. Ci salva il bilancio. Invece lo Stato mantiene una cosa. Allora per me il problema è di far funzionare lo Stato per quello che deve servire. Queste cose, ad esempio, secondo me c'è anche fare posti di lavoro. Ma è interessante, però il bilancio dello Stato ci salva. Tra un attimo risponderà su questo tema, sul quale lo sento già, immagino e lo vedo scalpitare, il professor Boldrin. Prima però fatemi salutare Carlo Tecce, giornalista del Fatto Quotidiano, che saluto. Carlo, buongiorno. Ciao, buongiorno. Eccoci qua, perché è uno delle ha detto che la più gettonata anche via mail in contemporanea è legalizzate e tassate la prostituzione, cioè gli italiani proprio dicono quella è la soluzione. Ma Carlo Tecce da due giorni ha messo il dito nella piaga delle consulenze dello Stato che ci costano 1.300.000.000 l'anno, Carlo. Sì, questa è la cifra. Esatto, 1.300.000.000 poi ogni anno è in crescita. Ma come? Il ministro Dalli ha detto adesso basta, giro di vite, l'aveva detto anche Patroni Griffi, ridurre del 20% le consulenze dello Stato. E prima ancora l'aveva detto Brunetta. Sempre ridurre. E poi aumentano. Ci sono anche delle cose che raccontate, hanno una presa giornalistica, effettivamente tu le racconti da un paio di giorni sul Fatto, per esempio. Beh, per esempio c'è la campionatura delle rondelle, dei salumi, il distributore, anzi un consulente, un esperto, qualcuno davvero bravo, che è stato ingaggiato dalla Regione Lombardia per 1.000 euro, è stato un lavoro abbastanza rapido, per distribuire i buoni gelato all'interno dell'evento Le Carre nella Foresta. Io non ho trovato nemmeno tracce su internet, quindi non so. È giunta Formigoni quando Formigoni ha mangiato questo gelato nella foresta, nella famosa foresta lombarda. Che poi sono tutte consulenze da 1.000, 1.200, 1.300, 1.400. Sono anche quelle un po' più alte. 5.000. Sì, però poche robe, diciamo, che messe insieme fanno una cifra astronomica. Messe insieme fanno 1.300.000.000. Poi c'è da dire una cosa per onestà intellettuale, che le consulenze aiutano le amministrazioni pubbliche, aiutano, appunto si parlava prima delle ASL, piuttosto che le regioni o le province, che non sappiamo ancora se esistono o non esistono, esisteranno per altri 2 ore o per altri 2 millenni, aiutano comunque a sbrigare del lavoro che non riescono a farlo. Allora qui c'è il paradosso: la burocrazia italiana, i dipendenti pubblici sono troppi, sono pochi, sono mal qualificati. Per cui c'è bisogno sempre di un consulente. È una bella domanda che girerei insieme a quella di Ferrero sullo Stato che salva con il suo bilancio l'economia, al professor Boldrin. E così introduciamo anche il tema: sono troppi dipendenti pubblici in Italia, Boldrin? Ma non è che sono troppi, ma non è che siano enormemente troppi, sono troppi. Solo che funzionano terribilmente male, non fanno, per una buona parte, non tutti, ma per una buona parte non fanno quello che devono fare, il loro lavoro è organizzato in maniera super inefficiente, secondo regole folli, e fanno solo danni. Ma vorrei tornare all'appunto che lei ha menzionato prima, che era la base dell'argomento di Ferrero, che davvero mostra che una parte d'Italia, mi spiace, Ferrero ne fa parte, non ha capito neanche come funziona un sistema economico e cosa serve lo Stato. Anzitutto noto che anche lui ha rinunciato a redistribuire, ha detto vabbè, quei 2 miliardi basterebbero a riparare l'IVA. Che per lui sono 10, per lui sono 10. Per lui appunto, son die- lasciando il resto di tassazioni invariate. Sono 10 però per lui, Boldrin. Sono 10 per lui, va bene. Nostri calcoli. Adesso mettermi a fare i conti così. Sì, vabbè. Telefono alla radio, però davvero non sono 10. Vorrei vedere su quali dati Ferrero e i suoi esperti abbiamo deciso che con una patrimoniale di quel tipo ricaviamo 10 miliardi all'anno. Ma veniamo al punto. Lui dice lo Stato e le sue spese tengono sul paese. Non è vero, lo distruggono. E sa perché? Perché le spese dello Stato non sono i proventi di un reddito che lo Stato produce. Le mie spese sono i proventi di un reddito che io produco facendo dei servizi. Le sue pure, quelle del signore che vende calzature, sono i proventi di uno che vende calzature. Le spese dello Stato sono tasse su chi i beni e i servizi li produce. Mm. Allora non è vero che sta in piedi, che perché per ogni lira che lo Stato spende c'è una lira che porta via un privato, dal reddito prodotto da un privato, il quale l'avrebbe spesa comunque in qualcosa, tanto per cominciare. Quindi un dollaro o un euro di tassa che se ne va dalla tasca mia o sua è un euro di spesa minore, mia o sua, e diventa un euro dello Stato. Da quel punto di vista non cambia proprio niente, cambia solo la composizione. Io e lei magari ci compreremo, io che ne so, un paio di scarpe, un libro, lo Stato paga una pensione o appunto un consulente di rondelle. Ma questo aspetto Ferrero non riesce a capirlo, però ce n'è un altro che è quello importante. Siccome questi proventi si raccolgono con le tasse si raccolgono laddove si può, si raccolgono in Italia soprattutto, ed è lì dove si contraddice, lo diceva lui correttamente all'inizio, sul reddito lavoro, specialmente sul reddito lavoro serio, perché il reddito lavoro, come dire, quello proprio veramente a buon mercato, quello che fa poco, quello poco produttivo, si nasconde e evade. Il reddito altamente produttivo non si evade, i tecnici, gli ingegneri, la gente che lavora in una grande impresa, quel reddito viene tassato, e viene tassato e come? Fra contributi sociali e imposte sul reddito e ammenicoli vari, viene tassato a ritmi del 50-60%. Allora far quello rende più costosi quei lavoratori, sì, per l'impresa, e più poveri loro stessi, e questo fa danno, è questo che distrugge l'impresa. Quello che Ferrero non riesce a capire è che la sua idea di tenere questo Stato enorme in piedi implica un costo. Questo al di là del fatto che poi lo Stato non faccia nemmeno il suo dovere, basta guardare la sì, certo. E guardare pezzi della storia, e poi soprattutto, un secondo discorso, il punto propriamente è il livello di spesa, capisce? Non è vero, perché lo Stato stando in piedi ha tassato l'impresa privata, ha tassato i lavoratori e ne ha distrutto i consumi. Ma infatti il punto da cui voglio ripartire tra un minuto è proprio questa, l'accusa che lei dice e fa Ferrero: se io spendo qualcosa è perché questa spesa è frutto di un reddito, di un lavoro che produco, mentre la spesa dello Stato è frutto di una tassa, di un qualcosa che prende ai cittadini per diciamo quel patto sociale che c'è di prendere le tasse ai cittadini, e quindi questo, dice Boldrin, caro Ferrero, distrugge lo Stato invece di mantenerlo, come dice lei. Allora, prima della replica di Ferrero vorrei sentire due ascoltatori, se sono gentilmente rapidi. Marco da Vicenza, buongiorno. Buongiorno. La sua soluzione qual è? Una piccola proposta. Come in tutte le aziende private, i manager potrebbero essere pagati in parte in contanti come stipendio, in parte in stock option, o in questo caso buoni del tesoro, vincolati e non cedibili a 10 anni. In questo modo avrebbero tutto l'interesse nel produrre un miglioramento, sì, dello Stato. Però diciamo, come per recuperare subito dei miliardi sporchi, brutti e subito, lei farebbe questa come soluzione, diciamo, a lungo termine? Questa è a lungo termine. Quella della patrimoniale, anche fossero solo 2 miliardi, mi lascia dire che 2 miliardi sono mai di niente. La patrimoniale. La patrimoniale. Va bene, Marco, è un'idea come ha proposto Ferrero. La ringrazio. Ezio da Imperia, buongiorno. Buongiorno, assolutamente condivido, premessa, Boldrin, tutto quello che dice Boldrin, importantissimo. Non dimentichiamoci dei vari sprechi dovuti ai forestali in Sicilia e tutto il resto, che sono comunque anche soldi buttati via quelli. Poi, l'hanno già detto, comunque, legalizzare e tassare la prostituzione, soggettare a monopoli di Stato le droghe leggere, si dà anche una mazzata alla criminalità organizzata, e con questo ci saltano fuori due manovre finanziarie. Quindi prostituzione e anche liberalizzare le droghe leggere. Grazie. Ma magari se un limite alle pensioni, quelle non alle pensioni superiori a 6.000 euro, sì, forse sì, sarebbe anche, sì, non guasterebbe, no? Ma certo. Poi quando ha messo anche il contributo di solidarietà, ne abbiamo fatto una trasmissione alla Corte Costituzionale, l'ha bocciato per il ricorso perché i diritti acquisiti non si toccano, quindi insomma poi bisogna fare i conti anche con questa cosa. Allora Paolo Ferrero e poi Carlo Tecce. Ferrero, diceva prima Boldrin, le mie spese sono frutto di un reddito e quindi questa è una cosa produttiva, le spese dello Stato sono frutto di tasse pure, ecco perché lo Stato è la distruzione, non la salvezza, come ha detto lei. Ma non è vero, perché intanto se la tassazione è una tassazione sui redditi alti e sui grandi patrimoni, questo vuol dire semplicemente rimettere in circolo del denaro nell'economia produttiva che altrimenti finirebbe o nella speculazione finanziaria, e ne abbiamo avuto gli effetti in questi anni, o puramente la tesaurizzazione, cioè quelli che ci hanno, diciamo, semplicemente mettono da parte enormi ricchezze. E che male c'è? Che male c'è? Ma nessuno dice che male, solo che questo è all'origine della crisi. Sì, bisogna un po' disincentivarlo, cioè bisogna redistribuire. L'origine della crisi, quella che è cominciata nel 2008 e da cui non stiamo uscendo, ha un'origine molto semplice, che i ricchi sono diventati troppo ricchi, la gente che lavora troppo povera, i lavoratori non riescono più ad arrivare alla fine del mese, non spendono più e questo ha determinato un blocco dei consumi. Se lei guarda la crisi italiana, non è dovuta alla riduzione delle esportazioni, è dovuta tutta al crollo dei consumi interni perché gli stipendi sono troppo bassi. Allora redistribuire reddito a me pare una prima cosa decisiva. Così come invece che pensare a ridurre il ruolo dello Stato, secondo me si tratta di migliorarlo, appunto ad esempio togliere gli sprechi, sì, ma anche togliere i ticket, far funzionare la sanità, l'assistenza, l'istruzione come bisogna. E da ultimo, e a me pare evidente che noi dovremmo uscire da questa crisi non per riprendere un meccanismo di crescita economica che non è più sostenibile, penso sul piano ambientale, ma ad esempio c'è un problema enorme di riconversione ambientale dell'economia, lì c'è un ruolo dello Stato che dovrebbe farlo. Ma questo sì, insomma, diciamo, lei vuole farlo, diciamo, più rendere più efficiente lo Stato, ma dimagrire un po' meno, dimagrire in alcune cose ma non tantissimo. Carlo Tecce, ovviamente subito gli ascoltatori, qualcuno via SMS propone abolire le consulenze tout court, forse ecco non bisogna ragionare poi con l'accetta, però quante di queste consulenze secondo te, che hai potuto anche visionare, sono davvero, se si riesce a dare una percentuale, sono davvero di primo impatto necessarie e quante si potrebbero veramente togliere del 1.300.000.000, ricordiamo che spendono le amministrazioni pubbliche ogni anno? Sì, sono 270.000 incarichi, molti dei quali sono incomprensibili, quindi la trasparenza che è stata utilizzata come strumento di propaganda soprattutto da Brunetta quando era ministro, ma anche dopo dal governo Monti, non aiuta comunque ad evitare gli sprechi. Direi, per azzardare un dato statistico, che almeno una su tre sono di consulenze sono quantomeno strane o inutili. E questo discorso si aggancia a quello che dicevano prima Boldrin e Ferrero. La presenza dello Stato non deve essere né annullata né rafforzata, ma riequilibrata. Come nella tassazione, come nell'affidamento di incarichi attraverso consulenze, ma anche per il sostegno che lo Stato può dare ai partiti per praticare la democrazia, non soltanto per fare campagna elettorale, tutto va più modulato. Mentre parlavate mi ricordavo una scena di Porta a Porta, se non sbaglio di 20 anni fa, con Gianfranco Fini e Casini che dicevano le tasse, sì, noi siamo liberali, ma le devono pagare tutti. Ecco, ci sono tante categorie, dai tassisti ai gioiellieri, dai ristoratori, ai fiorai, che le tasse non le pagano. E poi va bene, ci sono anche le rendite da aggiungere, le rendite patrimoniali, ma mettiamoci un po' per almeno altri 2 anni l'animo in pace. Così è messa brutale, è brutale un po' anche da te, perché adesso so già i tassisti, i fiorai, i gioiellieri che ci chiameranno e quelli che hai citato a dire ma come le paghiamo benissimo le tasse, ma sono le classifiche che ogni anno creano queste polemiche. Io mi devo fermare, ringrazio tutti, Michele Boldrin, Paolo Ferrero, Carlo Tecce del Fatto Quotidiano, riascoltate su radio24.it tutto, e da Elisabetta Fuscone, Alessandro Longoni e Peter Bescapè in regia vi diamo l'appuntamento a domattina alle 6:30. Alessandro Milan è un ottimo, eccellente rimedio contro lo stress e le gastriti da politica.